Ciao a tutte e a tutti voi, inizio subito parlando appunto dei processi ultimi che sono iniziati la settimana scorsa, che riguardano le organizzazioni non governative, tra cui appunto c'è questo collettivo femminista che si chiama NOSRO, che è nato nel 2005 e si occupa si è sempre occupato sia di studi femministi che di studi di genere, quindi ha un'impronta decisamente politica e il regime naturalmente non permette alcun tipo di opposizione e quindi NOSRO è tra le organizzazioni non governative che sono sotto processo. Volevo parlare, approfondire un po' la questione di questo collettivo femminista che appunto è nato nel 2005 e che durante la rivoluzione ha seguito i processi gender e hanno seguito le donne durante i loro percorsi di riabilitazione dopo aver subito violenze o stupri durante appunto la rivoluzione. E questa modalità di repressione che c'è stata appunto durante la rivoluzione, oltre alla repressione che c'era durante le piazze, durante gli scontri in piazza, era una delle modalità più brutali a cui appunto noi tutte abbiamo assistito, e purtroppo i casi sono stati veramente molti durante questi anni ed erano anche sistematici, quindi c'era proprio un'organizzazione da parte dello Stato per cercare di intimidire le donne che cercavano di scendere in piazza e lottare insomma per la libertà o insomma durante la rivoluzione. Tra l'altro però a quel tempo cercammo anche di approfondire parecchio perché come dicevi te, questa sistematicità con i quali avvenivano questi stupri ai margini delle piazze avevano anche una certa scientificità, ovvero c'era tutta una modalità di accerchiamento e di legittimazione e di invisibilizzazione di quello che avveniva poi alla donna che subiva la violenza, che impediva prima che venisse insomma compreso e capito di anche intervenire, mettersi in mezzo. Quindi ci furono anche dei gruppi che scelsero di attraversare le piazze proprio per intervenire e impedire queste violenze in strada. Sì, certo, diciamo che è stata un'autogestione, è stata in totale autogestione, quindi non c'era nessun cappello di nessun partito che si occupava di questa modalità repressiva brutale e quindi c'è stata un'auto-organizzazione dal basso in cui appunto i compagni e compagne si sono organizzate in modo tale da portare avanti un percorso con le donne che purtroppo subivano questo tipo di abuso e di violenza. E la cosa assurda è che comunque questo avveniva fondamentalmente a Piazza Tahrir, in un punto preciso, e per questo parliamo di sistematicità. E avveniva soprattutto quando la folla era grandissima o quando appunto c'era da parte delle guardie il lancio di gas lacrimogeni e quindi la visibilità era molto limitata, quindi diciamo che la situazione, e riuscire in qualche modo a gestire una situazione così aperta, visto che comunque parliamo di milioni e milioni di persone che scendevano in piazza durante la rivoluzione, quindi parliamo del 2011, 2012, 2013 e in qualche modo si sono cercati di fare dei percorsi di riabilitazione e ci sono state delle denunce, cosa che comunque non è molto scontata in una società come quella egiziana, che è molto non so come dire, è molto chiusa rispetto anche alla questione di genere o alla questione delle donne. Insomma, c'è un'impostazione anche religiosa, c'è un tradizionalismo che in qualche modo ti tiene legata e ti tiene rinchiusa rispetto alle modalità di vita come donna. Va bene, ti ringraziamo, se vuoi un po' continuare. Sì, e niente, quindi diciamo che in questo periodo le organizzazioni non governative sono sotto attacco. Questo processo era iniziato nel 2011 e per esempio Nasra è partita questa idea con anche altri 17 cittadini di nazionalità americana, che furono anche loro posti sotto processo e in assenza hanno avuto appunto sono stati processati. Quindi è stato riaperto questo caso in questi giorni e l'accusa appunto è quella di prendere fondi dall'estero. Oltre a Nasra appunto c'è Hossein Bangad, che appunto ne ho parlato, mi sembra, la settimana scorsa, che è un giornalista ed è uno che si occupa anche di diritti umani, che era stato arrestato per aver scritto un articolo investigativo molto dettagliato su tutto ciò che accade tra l'esercito e tra i fratelli musulmani, e insomma era un articolo molto fatto bene, in cui appunto denunciava la corruzione di questo stato insomma oppressivo. E quindi questo per quanto riguarda le organizzazioni non governative. Ora parliamo un po' di individui che non appartengono a nessun partito. Vorrei parlare di Gamal Abdel Fattah, che è un signore che ha 65 anni, quindi insomma di una certa età, che ha una lunga storia di resistenza e di lotta in Egitto. Infatti lui è stato incarcerato per la sua attività politica dal 73, quindi praticamente ha visto il carcere sotto Sadat, sotto Mubarak. È stato incarcerato quindi più volte. Nel 73 si è fatto 2 anni di carcere, poi è stato arrestato un'altra volta nel 77 e si è fatto 6 mesi di carcere. E diciamo che poi anche negli anni 90 è stato arrestato per qualche mese, sempre con l'accusa di sabotare il sistema o comunque di far parte di partiti che non sono di partiti antagonisti o diversi da partiti legati alla sfera egiziana, quindi riconosciuti. E rischia 5 anni in pratica. Gamal è stato arrestato un mese fa perché aveva in mano un cartello davanti al sindacato dei giornalisti, e quando è stato detenuto in questo commissariato per 1 giorno e mezzo praticamente gli hanno detto che lui in assenza ha da scontare questi 5 anni di carcere, sempre per la stessa accusa, appunto sabotaggio dello Stato. Quindi il suo processo inizierà, il ricorso del processo inizierà il 27, quindi domenica prossima, e vedremo insomma in che modo si comporteranno con lui e insomma vedremo, vi darò sicuramente gli aggiornamenti. E nello stesso giorno, quindi il 27 di questo mese, c'è invece il ricorso, l'ennesimo ricorso di Youssef. Youssef, lo ricordo, è un compagno e fa parte dei socialisti rivoluzionari, ma è anche un giornalista che appunto in una delle sue esperienze di insomma in cui è stato in carcere ha contratto l'epatite C e quindi la sua situazione di salute peggiora all'interno delle carceri del regime, perché naturalmente non ci sono cure all'interno delle carceri e quindi questo e lui è stato accusato insieme a Mahinur e Loai insomma è stato accusato e sta dentro da un anno, da quasi un anno per una lite all'interno di un commissariato, quindi sta scontando la pena di un anno e tre mesi e quindi speriamo insomma che Youssef verrà liberato domenica. E lui e Loai, Mahinur non c'è in questo ricorso e quindi questa è un po' la situazione dei processi e dei compagni che stanno un po' più vicini a noi. E poi volevo un attimo parlare del caso Regeni, non l'ho mai fatto però mi sembra importante in questo momento parlarne, perché appunto ieri la dittatura militare, lo stato del regime del Sisi ha ammazzato 5 cosiddetti criminali in quanto ritenuti una banda artefice dell'uccisione di Regeni in particolar modo, ma anche proprio della rapina di stranieri in generale, ma insomma non se ne è mai sentito parlare, ma questi sono stati giustiziati così insomma senza alcun ritegno e appunto lo Stato insieme alla polizia, insomma le guardie insieme alla procura hanno tirato fuori i documenti di Giulio, quindi sono stati fotografati e quindi sono stati accusati questi 5 che poi sono stati giustiziati, quindi non è che hanno subito un processo o insomma non crediamo nella giustizia di questo stato dittatore, però insomma è un modo per cercare per far rendere l'idea di quanto veramente non hanno nessun limite. E credo che appunto l'opinione pubblica italiana non crederà a queste menzogne, perché comunque è un modo per uscire dallo scandalo che è successo a Regeni, che appunto è stato torturato fino alla morte, è stato torturato per giorni e giorni e questa è la realtà in cui vive l'Egitto del Sisi, l'Egitto del generale ed è una repressione continua, quotidiana che avviene sempre e sono gli egiziani che vengono ammazzati, però insomma il caso ha voluto che Giulio fosse insomma una delle persone che è stata ammazzata e quindi è diventato un caso internazionale ed è diventato anche un modo per parlare di quello che accade in Egitto, visto che i media naturalmente, finite le cosiddette primavere arabe come piace chiamarle a loro, non se ne parlava più. vorrei finire con una buona notizia, cerco sempre di trovare delle buone notizie per non finire insomma tutte queste informazioni, tutto quello che succede in Egitto. Così insomma ieri è stato scarcerato finalmente Mahmoud, che è un ragazzino che era entrato in carcere a 18 anni per una maglietta con scritto no allo stato di tortura, e quindi lui era stato fermato in un posto di blocco ed era stato preso lui e un altro suo amico, e hanno scontato più di 2 anni senza processo, quindi una detenzione arbitraria. E finalmente Mahmoud ieri era libero, e insomma questa è una buona notizia. Speriamo sempre che la lotta e la resistenza in questa in questo Egitto folle e brutale insomma arrivi un po' a tutte e tutti quelli che sono privati della propria libertà.